piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Il body shaming, ovvero la derisione di una persona a causa del suo aspetto fisico, dilaga sempre di più sui social network. Stavolta la vittima è Armin Arutunian, 23enne modella armena di Gucci, che non corrisponde ai classici canoni di bellezza. La sua sfilata alla Fashion Week di Parigi ha fatto scatenare gli haters, che l'hanno attaccata senza pietà, denigrandola per il suo aspetto non convenzionale. Armin, intelligentemente, ha sempre preferito ignorare gli odiatori seriali, sorvolare, così come ha fatto la stessa casa di moda, che continua a ribadire che la ragazza è tra le 100 modelle più sexy del mondo. Alessandro Michele, attuale direttore creativo della Maison Fiorentina, si è fatto subito riconoscere per le sue scelte estetiche controcorrente che, se per alcuni sono una semplice questione di marketing, veicolano una nuova idea di mondo inclusivo e aperto verso la diversità. Ne sentivamo proprio il bisogno, di una bella polemica fra buonisti e cattivisti basata sull'aspetto fisico di una donna. Ne parlo a malincuore perché mi sembrava un argomento che rendeva ridicolo soltanto l'occuparsene, ma visto che fa parte comunque delle cronache ormai da vari giorni a tutti i livelli, il caso Armin Arutunian, è giusto che ne parliamo anche noi, ma lo sottoponiamo naturalmente al giudizio del nostro pubblico per capire qual è il punto di vista dell'italiano medio, quello che nell'ora del soffritto trova come complemento la sua felicità anche ascoltarmi per radio, quello che si è articolato come un colpo tardivo ma molto strategico. Andiamo ai fatti. Armin Arutunian è un artista, nipote di un artista di fama internazionale armeno, ha studiato, ha una formazione tipo europeo, vive a Berlino, si occupa di designer, di grafica, insomma non è una poveretta, anche se il suo aspetto è lievemente dimesso porterebbe a pensare che una povera ragazza presa magari da un campo profughi e messa come una mendicante viene presa nelle favole dalla principessa, rivestita e si mostra di essere più principessa della principessa, sulla passerella di Gucci. Ora, considerate che tutto è avvenuto un anno fa, è avvenuto durante il Paris Fashion Week di settembre 2019, quando ancora non si parlava nemmeno di Covid. Questa ragazza ha sfilato per Gucci. Ha sfilato per sfizio, così, perché nel giro iperfighetto europeo un'amica ti dice: vuoi sfilare te per Gucci? Ma io ho un nasone aquilesco. Però sì, dai, facciamo una cosa nuova. E ha sfilato vestita da una specie di camicia di forza, con una cosa lì per dare ancora più l'immagine dimessa. Al tempo non ho memoria che qualcuno se ne sia occupato, se ne sia accorto. Poi improvvisamente, 4-5 giorni fa, esce fuori una denuncia di body shaming, cioè di persone che se la prendono e ridono l'aspetto fisico di una persona nei social, perché pare che Gucci, non si sa bene come, dove, quando, sembrano un po' i sondaggi di Klaus Davi, quelli tarocchi che faceva, e chi è la più bella figa del reame, e la sua cliente naturalmente era la prima. Ecco, pare che ci sia stata una classifica delle 100 donne più sexy del mondo e ci abbiano messo dentro Armin. Qualche poveretto che sta lì a non far niente davanti alla tastiera e ne approfitta per dire varie cazzate di pancia, avrà detto: ma no, è brutta, un cesso, fa schifo, una racchia, siete matti, c'ha a che fare con la bellezza, e via dicendo. E questo ha scatenato e diviso subito il fronte del porto, che già ho identificato nella prima puntata di questa edizione. Ormai il mondo è diviso in due grandi filoni ideologici, radicali, manichei, non c'è una via sfumata. I cattivi dicono: ah, voi buonisti, terrazzieri infami, per attraverso quelle che sono delle strategie valoriali, non lo dicono perché non ci arrivano, hanno un'elaborazione limitata alla realtà, ma in realtà di questo si tratta, un marchio, se vuol far vedere che figo, mette a punto le strategie valoriali, mette in campo qualcosa che va contro quello che è l'opinione comune, tipo che una ragazza con un nasone molto pronunciato, con le ciglia cespugliose, con i capelli unti e appiccicati alla testa, con una faccia che sfida e dice ma oh, che volete da voi, che in un film della commedia italiana con Bombolo e Alvaro Vitale avrebbe fatto la professoressa Racchia con cui Pierino scappa quando la vede sotto la doccia, beh, improvvisamente viene declamata come una sorta di modello non convenzionale di bellezza. Altresì chi sta con il mojito in mano sulla terrazza a guardare il tramonto su Capalbio, non avendo un cazzo da fare in questi giorni, dice ah che vergogna, viene maltrattata una donna per il suo aspetto fisico, non sia mai, è una bellezza non convenzionale, bisogna apprezzare tutti i modelli di bellezza, cose sacrosante. Ci sono magari persone che fanno la bava e si attizzano come dei tapiri a vedere Armin, che magari vedono la Ferragni e per loro è come se fosse trasparente. Ci sono persone che sono legate a uno stereotipo, perché? Perché non hanno strumenti di elaborazione culturale, non hanno individualità, non hanno senso del rischio, dell'osare, dell'azzardo, insomma, vedono una persona che secondo loro viene dichiarata brutta, magari hanno delle mogli, delle fidanzate, delle sorelle che sono dei contenitori di Botox, ma le considerano bellissime e se la prendono. E di questo si parla, di questo si parla, e quindi anche noi chiaramente ne parliamo in questo sondaggio primo della nuova stagione. Da 3 giorni in Italia, oltre al Covid, non si parla d'altro. Intorno alla modella armena di Gucci, Armina Rutunian, è scoppiato un caso. Nato con i commenti denigratori alle sue foto sui social, perché il suo viso non corrisponde ai canoni di bellezza tradizionale. La reazione in sua difesa da parte di tante donne, ma anche di uomini, indignati per l'inaspettato body shaming di cui questa ragazza sconosciuta è stata vittima, non si è fatta attendere. E ora la disputa tra l'esaltazione della bellezza diversa e l'ironica denigrazione è aperta. Come spiegare questo fenomeno? Voi che idea vi siete fatti? Chiamate ora all'800240024 e diteci qual è la vostra posizione schierandovi tra 1. Morgisti buonisti filo scarafonisti. Finalmente una donna che con orgoglio svela e sfida tutti gli stereotipi estetici del più bieco maschilismo legato al culto della donna oggetto. 2. Botulisti pinappisti. Parlare di bellezza in questo caso è la solita ipocrisia dei radical chic. Senza nessuna offesa, si può dire che la ragazza è da considerarsi come una classica bruttona che per salvarla si dice beh, è un tipo. Se lei si espone facendo la modella, giusto poterla criticare per l'aspetto fisico. 3. Sveglisti dietrologisti. Ci siamo caduti tutti. È un'operazione di marketing virale studiata a tavolino. Operazione perfettamente riuscita, visto che se ne parla da giorni. Come hai visto, abbiamo riassunto le 3 posizioni possibili di fronte a questo fenomeno. Una quarta non esiste, non c'è. La quarta sarebbe me ne frego, non mi interessa niente, non me ne occupo, lascio che gli altri parlino. Vi do una premessa della quale sono fortemente convinto. In qualunque posizione voi possiate collocarvi in questo sondaggio, cavalcherete comunque uno stereotipo. È stereotipato l'atteggiamento murgista dalla scrittrice Murgia, buonista, filo scarafonista, cioè ogni scarafone è comunque un modello di bellezza, un universo da valorizzare. È vero, giusto, ma vi rendete conto quanto sia incivile dire a una persona che è brutta perché semplicemente non ci piace, perché non ha il naso rifatto, non ha le tette gonfiate, non ha il culo bombato, non ha le cosce levigate, non è photoshoppata. Una cosa incivile, fa parte di tempi passati. Oggi la modernità richiede una maggiore leggerezza, un aspetto lievemente alieno, mi ricorda un pochino la principessa di Avatar, quella azzurra che cavalca i draghi, che era bella a modo suo, attizzava, era strana, era aliena, siamo abituati a persone di tipo diverso. Calcherete comunque uno stereotipo se dite ah, i buonisti dicono che è bella, invece brutta, è un cesso, fa schifo. Eh sì, vorrei vedere tua moglie, tua sorella, tua fidanzata, come sono, cosa c'hanno di meglio. E non crediate che questa sia un'ingenua, è una persona che ha studiato design, ha studiato comunicazione, una donna altolocata, e quindi sa benissimo che lei non si rifà la plastica al naso, che gli piace quel bel naso, ce l'ha soltanto lei, non si depiglia le sopracciglia come qualsiasi fattorino che ci porta i pacchi a casa che ordiniamo via Amazon, non gliene frega assolutamente niente di sembrare più figa di quello che è, perché probabilmente avrà uno stuolo di ammiratori e di amanti, di apprezzanti, insomma è una donna di successo, quindi può anche ridervi in faccia, dice sì sì, sarà bella mamma tua, che ti devo dire. E altrettanto diventiamo fortemente rispondente allo stereotipo, noi che facciamo gli arricciati, ormai tutta una strategia, Gucci ha messo a punto qualcosa per far parlare di sé in un momento in cui nessuno entra in un negozio, nemmeno per comprarsi l'elastico delle mutande, sì è vero, è così, e quindi ne parliamo. Quindi 800240024, cominciamo con gli ascoltatori. Elena, buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno Elena, in quale posizione si colloca innanzitutto? Questo è importante. Io mi pongo nella posizione di essere una donna brutta, grassa e di età. Di conseguenza ho tutta la possibilità di contestare quello che sta succedendo, perché se fossi bellissima allora sarebbe... Quindi lei è una mugista, buonista, filo scarafonista? No, l'esatto contrario. È una botulista pinappista? Io dico... sono brutta, devo prendere coscienza che sono brutta. No, sono brutta e mi devono dire che sono bella. Attenzione, perché è molto particolare. Però scusi, mi scusi, no, Elena, ma lei da gusto uno la vede, allora, e dice brutta, vecchiaccia, grassa, schifosa, mi fai schifo. È brutto dirlo, sentirselo dire. No, allora, non è civile incrementare questo. Sto dicendo che devo prendere io coscienza della mia vita. Quello che sta passando, ed è molto preoccupante, perché come per fino a 3 giorni fa, prima che si parlasse di questo, le ragazze rincorrevano lo stereotipo della donna bellissima, come dice lei, della donna che deve diventare bella anche a cambiare i pezzi come una macchina. Certo, non vorrei... No, ecco, non vorrei succedesse l'esatto contrario, perché quella... Ma scusi, sarebbe meraviglioso, no, mi scusi Elena, poi la faccio parlare. Un momento che finalmente, chi ha un naso importante, chi ha un po' di peluria eccessiva... Sì, però non può vivere felicemente, neanche... senza sentirsi emarginato, sì, però... no? Ma chi lo dice? Ma chi lo dice che dobbiamo essere per forza emarginati perché siamo brutti? No, nessuno lo dice. No, ma sta andando tutto all'eccesso, ha capito quello che voglio dire? Cioè, sì, qua non c'è un come si dice, il buon senso non esiste più. Va bene. Il buon senso non è mai esistito nell'umanità diffusa, il buon senso è una caratteristica di pochi. Sta annientando completamente, perché le spiego una cosa. Se lei vuole fare la modella con il suo io non voglio parlare di bellezza, di bruttezza, parlo di suo tipo estetico, punto. Lo fa. Fa la sua strada, sceglierà la sua, però che non venga modificata. Elena già l'ha fatta la sua strada, una donna affermata, ecco. un artista che sì, si muove non vuol in dire un circuito che perché... si è presa lo sfizio di dire, facciamo che questa cosa ancora... divertente, che faccio la modella, capito? Sì, va bene, la brutta intelligente, la bella, ma non cartina. È brutta, no, ma non è brutta intelligente così, perché ma sennò a certi allora livelli sì, veramente è veramente degradante per la donna. Prendiamo coscienza di quello che siamo. Elena, oggi questo viene considerato una burinata andare dal chirurgo estetico, una quattata, una cafonata. E quelle detto? Che hanno in ma mano la foto detto? Di Valeria Marini ma o della Ferragni e vanno dal fare? Dottore, sono cafoni. Scusi, e questo è il discorso. Ma ecco, e invece io le dico che chi lo vuole fare lo fa. Sì, la lo fa, però smettere. Accetti il fatto di dire che fa parte ormai di un'umanità che ma fa parte del passato. Ma sono cavoli suoi, perché lo decidono sì, sì. loro, perché altrimenti sì, diventiamo... Sì, libertà di giudizio. Ma allora, qua, anche nel sesso, allora, vuole che le dica Luchino Visconti, mi scusi, andava a letto con Helmut Berger, va bene, sì, e andava a letto con Alain Delon, non andava con un sacco di gente, sì. No, non andava a scegliersi il brutto di torno. Da che mondo è mondo? Che ne sappiamo, abbiamo... questo non lo sappiamo. Se poi magari Dio, si imbagliva no, anche guardi, mi scusi, di un Dio cameraman adatto, con la fiatella, che ne sappiamo? Guardi, vabbè, scusi, Elena, l'abbiamo discusso. Scusi, no, se no mi porta via tutta la puntata. Abbiamo capito, non è una discussione filosofica. Non ho capito bene la sua posizione, ma è frastagliata. Massimo, buongiorno. Sì, pronto, mi sente? Certo, vada. Buongiorno, buongiorno, dottore. Allora, io la vedo in maniera un po' diversa, nel senso che concordo sul fatto che Gucci abbia attuato semplicemente una strategia di marketing geniale. Certo. Ha fatto quello che in pubblicità si chiama spaccatura, cioè certo, prendere una bellezza totale e trasformarla in una bellezza mediocre. Ricordiamoci che negli anni 70, forse tanti non lo sanno, io lo so, un famoso marchio di mini timer, inizia per M e finisce per X, per non fare pubblicità, produsse uno dei primi mini timer con lo slogan pubblicitario "non compratelo". Ne vendettero 7 milioni di pezzi. Sì, lei ha detto una cosa giusta, la cosa vorrei sfatare il fatto che magari è passato, che hanno preso una povera ragazza nata in un posto emarginato, che non ha i mezzi, gli strumenti per adeguare il suo aspetto fisico agli stereotipi vincenti, e l'hanno messa come fosse Cenerentola la sua passerella. È un'operazione molto intelligente. Io immagino com'è il creativo di Gucci, ha detto: "Ah, ciao Amin, che fai oggi di bello? Ci andiamo a fare un giro in barca?". Dice: "Ma annoio tanto, madonna quanto stai bene, lo sai, potresti anche fare una sfilata per noi?". "Ma sfilare che noia, che palle, poi devo andare a Parigi, non mi va in questo momento, sai, c'avevo in mente un giro del mondo, dai, fa sta cosa così facciamo incazzare un po' di gente, mettiti i capelli un po' unti, bene chiusi come la figlia di Fantozzi, e il naso lo fotografiamo bene che si vede in tutta la sua esagerazione, per favore non ti depilare le sopracciglia per un po' di tempo, anzi aggiungiamoci un po' di peli così sembrano quelle di Frida Kahlo, che fra l'altro è una icona di sensualità e aveva delle sopracciglia come Elio le storie tese, e facciamo un'operazione così questi scemici cascano a pie pari". Infatti noi scemici siamo cascati a pie pari. Ci fermiamo un istante, sì, ci fermiamo un istante, tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Da 3 giorni in Italia, oltre al Covid, non si parla d'altro. Intorno alla modella armena di Gucci, Armina Rutunian, è scoppiato un caso, nato con i commenti denigratori alle sue foto sui social, perché il suo viso non corrisponde ai canoni di bellezza tradizionale. La reazione in sua difesa da parte di tante donne, ma anche di uomini indignati per l'inaspettato body shaming di cui questa ragazza sconosciuta è stata vittima, non si è fatta attendere. E ora la disputa tra l'esaltazione della bellezza diversa e l'ironica denigrazione è aperta. Come spiegare questo fenomeno? Voi che idea vi siete fatti? Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci qual è la vostra posizione schierandovi tra 1. Morgisti buonisti filo scarafonisti. Finalmente una donna che con orgoglio svela e sfida tutti gli stereotipi estetici del più bieco maschilismo legato al culto della donna oggetto. 2. Botulisti pinappisti. Parlare di bellezza in questo caso è la solita ipocrisia dei radical chic. Senza nessuna offesa, si può dire che la ragazza è da considerarsi come una classica bruttona che per salvarla si dice: "Beh, è un tipo". Se lei si espone facendo la modella, giusto poterla criticare per l'aspetto fisico. 3. Sveglisti dietrologisti. Ci siamo caduti tutti. È un'operazione di marketing virale studiata a tavolino. Operazione perfettamente riuscita, visto che se ne parla da giorni. 800 24 00 24. Innanzitutto ringrazio le persone che mi mandano in onda: da Roma Alessandro Chiappini, Gloria Guerriere, Fabrizio Intonti, da Milano Roberta Frisani, sono tutti con me collegati, tutti visibili, anzi li vedete anche dalla webcam che manda in onda la trasmissione nel canale Facebook, penso, di Radio 24, anche immagino dal sito di Radio 24. E andiamo al tema di oggi, che è un sondaggio sulla questione di Armin Rotunian. Questa modella che viene fatta passare per brutta ha spaccato a metà il pubblico, non certo di alto livello di elaborazione della realtà dei social, che hanno detto: "È brutto, è un cesso, che c'entra con le donne più belle del mondo". E a distanza di un anno quasi dalla sua sfilata per Gucci è diventata un caso. Perché? Perché il mondo si è diviso fra chi difende il diritto di una bellezza non convenzionale di esprimersi. Mi sarebbe piaciuto che le bellezze non convenzionali siano le povere donne tutti i giorni, non prendere le metropolitane, non hanno tempo per trucchi, belletti, interventi e vestiti, sono distrutte dalla fatica e dal quotidiano, quelle nessuno le fa sfilare. Ho preso questa strafighetta designer che vive a Berlino di origine armena, di famiglia di artisti, l'hanno messa a passeggiare 10 minuti a Parigi e su questo è venuto il caso della povera armena brutta che tutti denigrano. Ebbene, non ne parliamo oggi. Ararad, buongiorno. Ciao, buongiorno. Parev nella nostra lingua armena, buona luce. Ah, Sarmen, mi spieghi allora, dimmi il tuo punto di vista su Armin. Allora, innanzitutto, per favore, Arminè Harutyunyan. Diciamo le cose mio, con lo so, gli tu hai ragione. E guarda, ho copiato quello che ti devo dire agli altri colleghi. Allora, dimmi come si pronuncia, così dai una lezione al mondo. Arminè come la sorellina mia, Arminè Harutyunyan. Harutyunyan. Tutti i cognomi, tutti i nostri vari cognomi armeni finiscono in Yan e si pronunciano con l'accento finale in An. Arminè Harutyunyan. Arminè Harutyunyan, come Charles Aznavour era Aznavourian, ma Arminè poi è stato francesizzato. Oh, Arminè Harutyunyan. Mi mancava, avevo dei dubbi. Ho provato a dire quello che sentivo dire la maggior parte dei telegiornali, cioè avranno chiesto a qualcuno. Tu hai detto Arminè, già è qualcosa, tutti l'abbiamo chiamata Armin, si chiama Arminè innanzitutto. Bravi, allora, il per caso favore Arminè. Se la chiamate, chiamatela con gli accenti giusti. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Arminè. Perfetto, dunque io mi divido nell'ultima classe ma anche in quella iniziale, cioè è stata un'operazione fantastica di marketing che ha fatto Gucci, è stato bravissimo perché far sfilare una donna normalmente bella è una cosa comune, far sfilare qualcuno che attizza tutte le curiosità e tutte le fantasie di questo mondo fa gli effetti che voi avete visto. Però mi individuo anche nella vostra categoria iniziale, la numero uno, perché nella nostra cultura, nella nostra gente è molto normale avere un naso di quel tipo, è molto normale essere pelosi, va bene. Quindi qua è in una Italia classica c'è un bellezza armena, diciamo la verità, è una classica bellezza non armena. È la classica bellezza, perché io ti confermo, quando tu andrai nella nostra terra bellissima, ok, troverai comunque donne bellissime e non ho certamente bisogno di dirti io che una cantante come Cher, americana, certo, ma armena, è una donna bellissima, non ti devo dire io che le sorelle Magari 4-5 interventi chirurgici fa, adesso oggi non appartiene più a nessuna etnia perché è talmente No, guarda, per noi, e in ogni caso anche parlando di maschi, Steve Jobs, che conosceva la lingua armena perfettamente perché fu adottato da una mamma armena, non sono certamente delle icone di bellezza, ma sono significative di un certo stile orientale. Ma io infatti sono d'accordo, io stesso e ho molte persone che conosco che hanno detto: ma perché, scusa, è bella, ci sono attrici, l'attrice, una delle attrici di punta di Pedro Almodovar le somiglia molto, abbiamo avuto anche noi attori, attrici, persone con particolarità non corrispondente a canoni di estremo equilibrio che hanno avuto un grande successo, e immaginiamo cos'è stato Carlo Delle Piane, attore prima comico, poi drammatico, figuriamoci, non è la lunghezza del naso che determina il canone. Ma mi dici come armeno, dal punto di vista dell'orgoglio di una popolazione di un'etnia tartassata, maltrattata, vilipesa, quanto significa invece una vostra donna che rappresenta il vostro essere, comunque sia al centro di un'attenzione generale? Te lo dico nella lingua nostra, Getze Hayastan, evviva l'Armenia. E per fortuna che una persona diversamente bella come lei è uscita fuori, perché ha un senso incredibile per noi. Ogni volta che qualcuno di noi riesce ad uscire dalla massa, prima di tutto perché fa parlare di noi che abbiamo sofferto moltissimo. Calcola che io sono nato a Khartoum in Sudan, figlio di una famiglia profuga dal genocidio e da una mamma comunque istriana, anche lei in fuga, per cui so perfettamente cosa vuole dire essere figli di gente che è costretta a fuggire sempre. In questa fuga, trovare qualcuno che ti apprezza per quello che sei, credo che sia la cosa più bella che ci possa essere. E invito a tutti quelli che la offendono, la denigrano, di guardare un attimino dentro di sé e di vedersi dentro, di capire cosa hanno di buono e di bello dentro di sé. Ma questo già l'ho detto io, senza avere affinità terrazziere. Oggi trovo che chi vuole cavalcare la contemporaneità dobbiamo uscire un po' da questi stereotipi. Io in Arminè vedo una bellezza che appartiene al futuro, vedo qualcosa di alieno rispetto allo stereotipo che ci ha ormai soffocato e distrutto. La trovo molto interessante, ma non lo dico a te per fare la ruffianata, l'ho pensato subito, dico, guarda, i coatti che vedono soltanto le ospiti di Uomini e Donne o quelle che in realtà fanno le influencer, per loro chiaramente è una messa in crisi di tutte le loro certezze, che sia bella figa la tatuata, gonfiata, botulinata, che avrà la sua ragione di esistere, non dico di no. Ti ringrazio, ti sono grato, sai, Arad, perché non mi sembra di aver visto nei giornali grande presenza di giudizi come i tuoi. Nessuno ha pensato di dire, ma voi armeni che ne pensate di questa vostra rappresentante, visto che quando siete rappresentati sempre per qualcos'altro che per l'essere armeni. Te l'hai detto subito, è una ragazza armena e rappresenta un tipo di bellezza. Grazie. Luca, buongiorno. Luca. Pronto? Ecco, sì, sì. Il tuo punto di vista. Buongiorno. Guardi, a me non interessa sapere i motivi, così, per me è una ragazza, per dire, può essere bella, brutta, poi ogni opinione è soggettiva e in funzione pure delle persone, del carattere e tutto, perché io ho visto persone belle che dopo 5 secondi che parlano capisci che hanno della segatura in testa e la bellezza svanisce. Poi sono bellezze che comunque con l'età, un domani, tutte le però cose lei, belle, Pino, sta rappresentando una posizione molto avanzata rispetto al sentire generale, al furor di popolo. Lei già ha un punto di vista basato su una maturità di analisi estetica che non è certamente della media, del popolo, dei social network. Ah, io faccio i complimenti a quella ragazza perché ha avuto il coraggio, sì, di intraprendere o di tentare. Ma di coraggio, provare. Ha fatto un'operazione, non è che ha avuto coraggio, ha avuto l'idea felice di farlo. Non ha rischiato, esatto, niente, che ci ha solo guadagnato, diciamo la verità. Esatto. Ci fermiamo un istante, però devo lasciare la linea, mi scusi, se no il professor Chiappini mi sta segando a gesti, ormai lo vedo e non posso far finta di niente. Tra poco. Melog 800 24 00 24, riprendiamo subito il nostro colloquio con gli ascoltatori, stanno chiamando tantissimi, sono ancora contento per il signor armeno che mi ha chiamato, mi ha corretto giustamente la pronuncia, si chiama Arminè Harutyunyan, questa ragazza, questa modella, questa artista che si è prestata felicemente con intelligenza, sagacia e spirito di intrepidezza culturale a scoperchiare quello che è l'affondare comune nel luogo, nello stereotipo, sia dal punto di vista dei denigratori che dal punto di vista di quelli che invocano le strategie valoriali. Francesco, buongiorno. Buongiorno, ciao, io sono Francesco Sisto, volevo intervenire perché oltretutto mi occupo di chirurgia plastica ed estetica. Sei un chirurgo, quindi, estetico, benissimo. Io intanto mi rendo volevo conto che, scusami, Arminè è diciamo la donna che tu non vorresti che mai esistesse perché non entrerà mai nel tuo, nel tuo studio, almeno no, per adesso. Invece ti sbagli. Intanto vabbè, io volevo precisare una cosa. Dunque, intanto va bene, magari Arminè sarà contenta di come è, ha altri interessi, è felice così ed è giusto che sia così. Se lei sta bene così com'è, lei deve rimanere esattamente così com'è senza sottoporsi ad alcun intervento, perché uno dei principi, o meglio la prima condizione, la condizio sine qua non per cui tu ti possa sottoporre a una modificazione nel tuo viso, del tuo corpo, è il tuo consenso, cioè la tua precisa volontà. Non è lecito imporre imporre nulla dall'esterno. La persona che si vuole sottoporre a qualunque modificazione deve assolutamente essere consapevole e consenziente. Se lei, la ragazza, si sente bene così com'è, va benissimo. E non è lecito da parte nostra, poiché la bellezza è comunque fa riferimento a dei canoni soggettivi, imporre dei canoni oggettivi, né da un lato né dall'altro. Questo è il mio punto di vista. Volevo peraltro precisare che se arriva in studio una persona con la foto di quell'attore o di quell'attrice, beh, poiché i canoni morfometrici differiscono da un volto all'altro, cioè in altri termini ognuno è se stesso ed è nessuno è uguale all'altro, è praticamente impossibile rifare il naso di quella persona perché ha dei caratteri molto specifici. Quindi diciamo, io volevo intervenire di una cosa molto chiara, Francesco, è chiaro, Francesco, sì, no, Francesco, molto, è chiaro. Una donna, un uomo che nasce con un naso, diciamo, importante o molto pronunciato, che per lui è motivo di infelicità, di dileggio, di mancanza di sicurezza, fa bene aggiustarselo come vuole. E qua stiamo parlando di un'artista, figlia di artisti, immagina in che ambiente di raffinatezza, di avanguardia vissuta, se ne può fregare altamente del suo naso, anzi ne fa la sua bandiera, diventa oggetto di emarginazione quando vivi immerso nell'emarginazione sociale, nella miseria culturale, nella mancanza di strumenti che ti possano aiutare a avere orgoglio anche del tuo aspetto fisico, allora giustamente intervieni per stare meglio, ma lei cosa gliene importa del suo naso, anzi è la sua bandiera e diventerà da oggi in poi il viatico del suo maggior successo, farà film, sarà chiamata da tutti, la chiameranno a Sanremo come ospite, già mi immagino quello che sarà la sua successiva fortuna. Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, volevo comunicarvi, non è bello ciò che è bello ciò che piace, la bellezza è soggettiva, quindi ciò che a noi non può piacere ad altri sì. Poi se parliamo di bellezza ce ne sono tante, c'è la bellezza visiva, fisica, chiaramente anche l'estetica ci aiuta a vivere meglio, in anteprima, o meglio innanzitutto ad accettarci, perché molte persone spesso sono obbligate a fare degli interventi estetici perché non riescono ad accettare il proprio fisico viso, quindi lasciamo libera scelta. E poi vorrei concludere con una battuta: una donna baffuta entra in chiesa e gli chiede al padre: padre, se mi sposo è un peccato? No, è un miracolo. Lasciamo ad ognuno intendere. Sì, vabbè, sono proverbi di saggezza popolare, donna baffuta, sempre piaciuta. È relativo, ma se lei guarda quelle che erano le donne dell'harem di uno scià di Persia, non so, di un re di qualche etnia orientale, qualche regno orientale, erano terribili, signore che sembravano dei personaggi della commedia comica, capito? Vestite in maniera ridicola, con i calzini corti e le scarpe, e con dei baffi allucinanti che non c'ho nemmeno io. Eppure erano considerati il fiore della bellezza. È chiaro che nelle epoche i canoni di bellezza cambiano. Se guardiamo alcuni quadri fiamminghi, non è detto che siano donne che oggi vengano considerate belle. E come giudicheranno nel futuro le modelle anoressiche che sfilano per i grandi marchi, sono considerate modelli di bellezza, diranno in quell'epoca dell'umanità, ahimè, c'era una carestia terribile e le donne non avevano da mangiare. Pino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Io appartengo al terzo gruppo, per me è un'operazione di marketing, ma volevo semplicemente ricordare che la modella ha partecipato ad una sfilata, non era un concorso di bellezza. Indipendentemente da questo, vedo anche che chi ha architettato questa cosa ha voluto mettere il contrasto, secondo me, la bellezza del vestito, dei vestiti che indossava, col dire tutti possono indossare questi vestiti che rimangono sempre belli, anche quelli che sono stati fatti brutti, perché non è brutta, l'hanno conciata così. Arminè. Sì, diciamo anche, questo ha ragione, è stato fatto di tutto perché quelli che erano alla luce di canoni estetici più diffusi dei difetti, orecchie a sventola, subito capelli dietro, con queste orecchie si vedono bene, viso molto spigoloso, capelli unti appiccicati alla faccia che non si veda, che si veda che sembri, capito, una povera scappata di casa, sopracciglia che bastava prendere una pinzetta, no, con quel bel ciuffone. Ma poi ce l'ha spiegato il nostro amico armeno: per gli armeni sono un simbolo di grande erotismo con le sopracciglia folte, capito? Se non fosse qualcuno che ama anche le sopracciglia folte, Elio sarebbe un povero solitario senza compagni, invece un uomo di grande successo e grande fascino, e al monociglio, capito? Frida Kahlo, che viene considerata una delle donne più sensualmente attive dell'ultimo del Novecento, aveva delle sopracciglia inguardabili che si toccavano, aveva un fisico molto singolare, molto strano, deturpato da incidenti, viveva praticamente stesa in un letto. Poi è una donna che ha fatto impazzire uomini e donne di altissima levatura, quindi, come vede, conta poco. Sentiamo Fabio. Fabio, buongiorno. Fabio non c'è, Pino ha parlato, allora a questo punto tiro io qualche conclusione, come sempre accade. Abbiamo Fabio, ce ne sono due di Fabi, uno parli. Pronto? Ecco Fabio, uno dei due Fabi. Sì, se è Fabio lei. Sì. Poi chiunque sia mi aiuta a riempire questi ultimi due minuti, se no li riempirò da solo. Perfetto. Prego, suo punto di vista. Allora, il punto di vista è questo, tutta questa polemica potrebbe essere anche nata dal fatto che comunque noi oggi viviamo condizionati un pochino dalle varie lobby, ci dicono come vivere, come vestirci. Però Fabio, prima faccio andare avanti, poi le dico una cosa, la polemica su questo è scientificamente provato, è costruita artificialmente, perché ha sfilato un anno fa Arminè, un anno fa ha sfilato, dopo un anno a botta ritardata si inventano questa classifica delle prime donne più belle, qualcuno sapientemente manovra i social, attizza un po' di canaglia, capito? Ma vi piace? Bella? Tutti no, fa schifo. Qualcuno dalle terrazze si muove a difenderla e nasce la polemica. Detto questo, vado avanti. No, quindi manovrata la cosa sicuramente. Ma certo, ma sicuramente, figuriamoci. Alla fine poi scontato. Dopo quando è assolutamente manovrata, dopo ovviamente si perde anche a volte il controllo e quindi poi nascono questi punti di vista diversi e sicuramente potrei immaginare il fatto anche che qualcuno urla lo scandalo proprio per il fatto che noi siamo abituati a dei canoni di bellezza imposti appunto da questo mondo della moda. Sì, siamo abituati come nel colloquiare con gli altri, le nostre scelte individuali, poi ci pigliamo quello che ci attizza, quello che ci piace, quello in cui stiamo bene, che non è certo quello che vediamo sulle passerelle, salvo persone prive di spirito e prive di coraggio e intrepidezza, come ho già detto, e che si accontentano di avere delle sagome cartonate a cui si accompagnano, e l'importante è che si vedano assieme a queste persone. Beh, vi ringrazio, mi sembra che come sintesi estrema il risultato di questa puntata, che abbiamo capito che comunque gli armeni, che già soffrono molto e molto sono emarginati, tartassati e massacrati, hanno finalmente un motivo di orgoglio generale, hanno la loro Arminè che ha fatto discutere il mondo intero. Alla prossima.